tarde, mi hermano. Dice? Buenas tardes, mi hermano. Ya, ma che è fissato. Siamo stati un attimo in da pompare, sai? Ma sto pompando. Lo giago? Sono tatuato, giago, l'hai visto su Facebook. Ma che c'è più su Facebook? Sì. Ah, ma c'è, a cosa avete sentito a Fabrizio? Va bene, a dopo. Dimmi qua. Passa un attimino a 14. C'è più su Facebook, già? Sì. Luca Pudi, tu non lo ritrovi, se non è più male come trovi più. Perché è cambiato? No, non ascolto le mail. Aspetta, c'è una cosa. Adesso. Ma adesso stai subito. Si ci guardi. Allora, facciamo una cosa. Da un bel di Luca Pudi che Mattia non me lo va. Boh, come mai? Ma non l'avete cancellato allora? No, io non ho cancellato nulla. Oh, magari involontariamente, non lo so. Io di mio proposito no. Aspetta un attimo, ma non c'è la computer. Domanda, sei ciudato. Mamma mia, non va, cazzo, non va, mamma mia. No, sei tutto. Proprio di Windows. Ciao, cazzo di webcam. Ma andiamo. Buono qua, non accendi. Ecco qua, aspetta, accende. È un bel lento, adesso lo faccio formattare. Che te l'hai fatto là su Facebook, ti ho dato amicizia. Già. Via. Qual è la foto là su Facebook? La mia foto è quella con il gatto. Aspetta. Ma l'azione dei configuratori di Windows sono spegne del computer. Mazza. Ho fatto 18 aggiornamenti. Aggiornamento sì. 18 ne ho fatto. Allora, configurato aggiornamenti di Windows, percentuale del 100%. Cazzo, lui basta in lì. Quello della pazienza, guarda. Richiesta di amicizia inviata. Se tu non me la accetti ormai io non ti posso. Non mi puoi aggiungere. Ma a me non me ne è arrivata, scusa. Se a me non mi arriva io come faccio a accettare? Non mi è ancora arrivata. Arrivando. E controlla. Oh, saputo. Arrivata, l'ho accettata. Sì, la controlla. L'ho accettata. La vasellina non è sapere. Sì. Quanto ce l'hai? Ma la giorno me l'ho fatto. Oggi? Ehi. Beh. Non me l'ho fatto uno sconto già. Ah, è qualche studio. A forza, uno studio tutto messo a operare, tutto disinfettato, tutto a posto. Beh, perché quello è importante. Ha fatto prima il disegno e poi ha fatto il tatuaggio. Sì. Male? Un po' sì, dai. Le punturine, sì, punturine. Lo poteva fare però qui sta a capo, troppo attaccato le lettere che ha fatto. Ah, tu non ti avevi un messaggio, aspetta. Ti ha rasato il pelo? No, sarebbe, non è più un bogo. E la fa male, già se ho troppo messo la crema. Vedi, Maria, Maria, che è? Vabbè. Guarda, tenetelo umido, perché sennò ti si scolorisce subito. Io ce la colorisco. Lo so. Ma cosa metti tu io tra crema e questo prodotto per... come si chiama? Questo prodotto per... un intimo all'aria per tenerlo, per lavarlo. Se ho problemi di lavarlo non è un problema, schiumarlo e devi fare cose molti, dico, le cose come ti raccomanda, capito già. Aspetta un attimino, aspetta, sei più veloce, se poi ci lasciamo. E vada che un bel carico di cantoni, di cose, come fa Manuela, che ha col PC è una scheggia che ha fatto diventare lento come una lumaca. No, perché ormai c'è un disco da 3.20, ho già lei a Puglia, no, no, no. Lei è purtroppo un uomo nei siti, si intera di fare temporanei, un casino, ma io non la piglio più. Resta un po', ci andiamo a curcarci. Adesso a Milano mi mandare a cantare, in una sala di incisione. Da sola? No, l'accompagnetta mia moglie. L'accompagnetta mia moglie, ma in questa sala di incisione dovevano fare un recital, questo veniva dall'America, questo attore, gli ha fatti i provini, gli ha fatti cantare senza musica. Cosa? No, è tornato. Se daranno la risposta, dice che c'era il mondo. Beh, ti vedo. Gioiaia, per carità. È un passo già. Ah sì, ma chi è che sta facendo musica? 9.20. Questo è un coro che sta cantando, un coro che c'era lì. E li prendono, fanno un recital, capito? Un recital in America. Io Luca, hai visto la propagazione che c'è oggi? Attento Luca. Quando ci sei? Hola! Che? Alca! Uè, Antone! Ehi! Ti interessa un jumbo che te lo prendo? Un jumbo? E te? C'è un aereo? No, un lineale, 600 watt, già un barista per ti far volare. No, no, lei ha voglia. Ce n'è per i maiali con il BV131, ma cosa me ne faccio? Ma è cambiato radio. E c'è un'altra cosa interessante, c'è un Midland 1000, allora, 13.898 B, 56 euro, stazione base, 23 canali. Ma non vedi una cosa, su internet? Ehi? No, ti ringrazio, io mi serve solo un ricevitore HF e per la stazione ho tutte le bande che giustamente posso andare ad ascoltare. No, sono perfetto così, solo quello mi manca, che sono alla ricerca, forse l'ho trovato ben lì, no? È bello veramente. Poi metto tutto a posto, ti ringrazio già. No, perché non c'è solo, siamo riabilitati, quel baracchino è bellissimo, solo che 23 canali, ma è bello, tutto fatto in legno, molto bello. E vedi quello da collezione, ma anche bene. Perché siamo cambiato radio? Perché male sto uscendo? C'è un microfono normale. Esatto, beh, che dovinato, l'originale. Beh, intanto li faccio uscire. Sto usando fancuffia, Alan 44. Poi c'è Milan Alan 8001, 275 euro, omologato, con bande, CB. Bellissimo anche quello, l'8001 è bello, mi piace. Prima o poi me lo prenderò. Se vedi quello in legno, là, che ti interessa quello in legno è bellino, sicuramente, ma sicuramente è da collezione, là già sono belli come quelli come apparati, vedi un po'. No, io a me mi sto assillando tu beh alla scuola a fare radioascolto, Dio mio, sto sentendo di cose abbastanza interessanti, ce n'è. A Beirut? Come già? No, tapponato a Beirut. A Beirut, no, stavo usando, ultimamente sto usando il RZ1, Dio mio, ce n'è a posso poco so. A quello della E K, sì, che è il RZ1. Ne ha voglia di girare, ce n'è guai, impressionante. Ho beccato un antennino, gli ho messo un antennino, guai. Ma sai come dicevo, una meraviglia. Niente, una meraviglia. E ce n'è, non sarà altro che girare e ascoltare. Girare e ascoltare, pare all'infinito, nella zagana di starti lì a fermarti. Cioè, senza memorizzare GVFO così. Allora, io scaccio lo scanner, che poi appena lo scanner, ti e si ferma e ascolti, lo rischiaccio di nuovo e riparte. Da 50, da 500, da 500 sino a 990 al boh, ahi se non mi la metto più su. Aspetta, come mai? Ah, scusami, te lo dico subito, aspetta. Allora, tata, se... allora, da 5000 a... 905.000. Vabbè, non c'ha certe bande però. Vabbè, comunque gli radioamatori già riuscite. Ha voglia, ultimamente più degli altri giorni, la verità. Dunque sono sempre da una parte all'altra. Piccolo, lo stai usando. E allora, quello è che avrà letto, sento a voi quando vado a nanna. Oh. Ha voglia. L'unico che non sento è a Popolo. E basta, mi sa. E comunque la maggior parte di Sassari sì. L'unico lui, vabbè, lui è un femmino, purtroppo non ce l'ha. Ma la maggior parte è sempre a tutti, e ha voglia. Poi va bene così. Ti piace? Io mi sono stufato anche di fare questo. No, è abbastanza interessante. Sull'orecchio destro c'è il Kenwood, sul sinistro c'è la 27 e a Puglia. Come mai se riesco, mi becco l'HF, allora dunque devo avere il terzo orecchio. Vabbè. Che già va bene, dai. Si poteva fare anche un po' con un apparecchio comunque. Sì, quello sono pienamente d'accordo, ma comunque più numero di apparati, più spettacolo dà un po' la situazione quando ti siedi nel posto della poltrona. Prima tocchi uno, poi tocchi l'altro, poi schiacci lì, schiacci là, dai. Te la prendi un po' come anche divertimento. Raga, va bene. Qui ce ne sono antenne, ci si chiude gli amatoriali che vanno ben bene, c'era anche quella che si mette sul tetto. Ne ho beccato una, la Midland 760 RF, NF, boh, non so, non mi ricordo com'è, è tutta in acciaio, dico che funziona veramente bene, fa U e V. Dove l'ha presa, la GBC? No, da internet. Sì, la GBC non c'è un cacchio, per carità di Dio. Dici trasmettitore base 27 MHz, 40 canali, 7 canali base, 120. Adesso devo trovare il foglio, non mi ricordo neanche dove l'ho messo. Devo guardare lì. 22 euro con spese di spedizione. Io ho beccato dove c'è quella specie di simbolo top quality, una roba di comunque affidabilità del prodotto nella spedizione, capito? Direttamente da negozio. Va bene, non ho fatto un affare. Io invece ne ho beccato uno che ha direttamente l'antenna attaccata dietro ed è una stazione base. E non ti ho capito già, scusi, ma mia figlia dice che aveva mal di pancia, basta mangiare bene di meno. E ti volevo dire, cos'hai beccato? Un'antenna? No, ho beccato un ricevitore, stazione base. Quadribanda, mi pare che fosse cosa. Che aveva l'antenna direttamente attaccata a lui, senza bisogno di metterla fuori. Ah, ma diciamo di quei due nuovi modelli oppure... È un modello, diciamo, di vecchia era, però c'ha questa antenna con il PLAU, AL e con l'antenna attaccata. L'attacco dell'antenna è a PL, capite? E dice che riceve benissimo senza antenna esterna. Non vuole niente. E ho capito, se non sbaglio avevo visto qualcosa su internet, così di sfuggita, ma non mi sono fermato più di tanto, stavo cercando proprio un apposito, uno IAS, un chemico, qualcosa di più concreto. C'è uno IAS che è più piccolo, un pacchetto di sigarette qua, aspetta, un pacchetto di camera non funziona, se va a vattene, ignorando. Beh, l'effettivo è di 3. Ok, un attimino già, ti metto la sigaretta e arrivo. Non lo dire, ma c'è un accenno. Oh, mi senti già? Tappa. Va bene così? Sì. Ma cambiato microfono. Lo sento, si sente che l'hai cambiato. Ecco qua. E allora cosa mi racconti di bello? Novità, qualcosa? Dalla 27? No, novità tutto, no. Si modula come sempre, niente di. E qua c'è un buon microfono, il Tamer IM più 2U, questo va bene, questo lampada, è Bobuzocca. E quelli sono belli, ma cosa sei in Google? Ma scusami, in Google, in porca miseria, come si dice, in eBay? Sono su eBay. Fortunatamente ancora c'è un po' di, un po' di cianfrusaglia lì ancora la trovi, fortunatamente. Sia cosa nuova che usata, solo che è sempre quel punto di domanda, sempre quello. Se possibile conviene sempre acquistare da con persone che conosci, almeno un minimo di garanzia te lo danno, tocchi il prodotto e poi valuti un po', ecco. Io avevo beccato un bellissimo apparato che qua in Italia costava 700 euro, un bellissimo apparato, In HM. Già si trovano le cose, lasciano anche le fregature. Costava 79 euro e doveva arrivare dall'Ohio, negli Stati Uniti d'America, e le voleva 79 euro, ma era veramente uno spettacolo, era un bestione impressionante, faceva tutte le bande, proprio amatoriale al 100%. Però che garanzia puoi avere? Quello è il problema. Sempre un Kenwood, Mi sa che c'è l'orologio che è uscito il perno, Cazzo lo usa per giocare, la rubrica. E quale orologio? Niente, era il compleanno di Marco, gli ho regalato l'orologio. E oggi la notte. E non sai come sono i bambini. Ok, eccomi qua. Avanti la portante. No, cosa cavolo, l'ho toccato. Ok. Ma già si può riparare, sì, già. E il pelo del cinturino riuscito. Ah, allora già è semplice, un piccolo cacciavitino di quelli di precisione per gli orologi, e il gioco è fatto, di quelli a taglio, i più fini. Ma l'ha perso, mi è saltato, capito? Ah, l'ha perso. E ora c'è, vai qualche orologiaio, quello dove riparano i cinturini, lì te lo fanno subito in 5 minuti. Posso? Aspetti. Eia. Giorni. Petronio! Petronio! Va bene, buonasera, ben sentito. Bentone. Ma ti trovi a casa? Eia. Riposo, dai, allora un po' senza sentirti. Cosa mi racconti di bello? Deonci. Eia. Cosa mi racconti di bello? Niente, sempre facendo quel lavoro là. Nulla di particolare. Oggi a raccattare ferro. Oggi stavo raccattando ferro. Davvero? Ora, c'è uscito un po', va? È meglio così. A Santa Arrangiati. Ci guadagna, ma lo sanno, Cos'è, Antone? Che guadagni? Intanto sparisci. No, già ci sono. Ma tuo fratello dai, sta facendo lavoretti anche lì alla fine, dai. C'è troppo ancora M, Antone. Già me ne sono accorto già. Ma non mi senti? Io ti sento, ma mi stanno arrivando quasi 9-10 questi qua. Sì, a me è stato tutto un colpo, anch'io lo stesso. Vabbè, il Midra ne tira molto di più, comunque. Sì, è vero, è aumentato abbastanza. Che scappa. E Dio Pomponio, non l'hai più sentito? No, non ho sentito. Scusami un attimo a vedere una cosa. Sono in FM, è per quello che c'è un propagatore in FM su questo canale. Ah, scappa. Cosa è andato, vedi, ha diminuito. Vai via la propagazione, si cominciano le belle stagioni e comincia un po' di propagazione, allora sentiamo qualcuno in lontananza. Scappa, la sera stavo trasmettendo da coso, da chiama quel paese, paese, città è Nada, ma non mi ricordo bene, comunque arrivavo lì, arrivavo a segnale di 7, radio 5. E anche io pochi giorni fa, in sempre in AM, in C, ho beccato un camionista, se porca miseria, vuol dire veloce, mi sono dimenticato, porca miseria. Comunque una bella distanza, senza pulito pulito, non mi ricordo dove diavolo stava viaggiando questo. Comunque andava bene, mi sentiva benissimo. Ma infatti in questi giorni anche in canali alti o bassi c'è un bel po' di propagazione italiana, adesso sta iniziando, infatti uno mi ha fatto una spulciata due giorni fa e stavo facendo una diversi QSO in lontananza, abbastanza divertente. C'è un'altra cosa, c'era Domenico Tardanetto che l'ha sentito anche lui e gli arrivava bomboletta e dunque anch'io gli ho chiesto il controllo, mi ha detto, dice Santiago, la radio di 5, il segnale 7, ho detto cazzo come è stata Ripola, comunque sempre in zona italiana alla fine, sì. Sì, zona italiana, però fuori, capito? Fuori delle Marche, hai capito? No, ma adesso piano piano inizia, vedrai, sarà un pochettino più di divertimento, così, dai. Lei se puoi fare in lontananza, almeno i controlli come si deve li fai, ecco. Il gusto è quello alla fine. Più lontano sei hai più, dai, più soddisfazione. Giustamente, quando c'è il collega che sta trasmettendo le chiedi un segnale a vedere come arriva lì, quella zona lì, mi ha detto, dice la radio è buona, anzi complimenti, mi ha fatto i complimenti perché si sentiva pulita. Visto. E a volte vuole in questa occasione per avere anche un'antenna di quella dove sondi, ma di quelle semplici, niente di particolare, quando c'è propagazione, guarda. Qualsiasi antenna va benissimo, quindi manca un dipolo, non dà nessun problema, viaggia con una meraviglia il segnale, però purtroppo sono quei pochi momenti o quei pochi mesi, massimo uno o due mesetti, se proprio sei fortunato che riesci a divertirti in quel modo lì e poi giustamente lavori in zona e via, già è bello, da una volta all'anno già ti dà più soddisfazione la situazione. E capa, giustamente, lui a casino è. Anche ciò, questo mal di testa, cazzo, ma non è forte, è leggero, però mi sta spaccando la testa. Lo sai anch'io stamattina, ho preso un Aurin mezz'ora dopo, come nuovo, poi ho fatto una spulciata lì al giornale, non è letto che diciamo il gruppo delle 5 stelle ha preso un po' più dalla situazione, speriamo che sia un inizio di un cambiamento per stare un pochettino meglio e poi dovrebbero abbassare la benzina e tutto il resto, speriamo. Speriamo, sì, e cosa abbassano? 2 centesimi, 3 centesimi, e cosa sono? Ma penso anche qualcosettino in me, ancora un pochettino di più di me, no, ecco. Scusando il gioco di parole, dovrebbe scendere un po', un bel po', così o almeno, poi bisogna vedere un po' se è vero, sono le solite presenze di fondelli, ma speriamo che qualcosa si muova. Speriamo. Sul il perno e non riesce a trovarlo. C'è niente, tanto lei non c'è nulla. E quello sì, quello pienamente d'accordo, ma sembra che qualcosa tira, ci stiamo muovendo, speriamo che sia un pochettino di più, adesso vediamo un po' com'è la situazione, comunque, prima di vivere la giornata, non c'è rimedio, tanto alla fine, se parti sempre cattivo, va a fancuffia. Capa, ma sempre a Olbia sei, Antonè? Sempre? A Olbia? No, oggi era a Sassari, con un amico, un camioncino. Abbiamo fatto 2 o 3 viaggi di ferro, infatti questa campagna c'era questo pastore che aveva montagne diviso tra ferro e alluminio, le ho portato lì alle spasciacarrotte, alle punti, no cosa le punti, ah porca miseria, la Budi Budi, lì lo pagano bene e ci abbiamo fatto la più di una giornata, dai. Ma eravate in due? Eh beh sì, lui c'è il camioncino e giustamente abbiamo fatto metà e metà, ecco, poi invece le poche spese della, del gasolio. Va bene, portata di togliere le spese. Ma è poca roba, proprio per il resto, guarda, se ne trovi, guarda, ferro, ti fai di là, ti giuro, veramente te ne fai, Poi se c'è il rame, meglio ancora. Allora sì che ti fai un bel po' di soldini, Vabbè, adesso vediamo. Vediamo Antonè, perché devo scendere in campagna a vedere se c'è un po' di ferro e portarlo via da dietro uno, da dietro casa, capito? Tutto il ferro che c'era lì. Guarda, se ne hai una bella quantità, ti dico che ti fai, guarda, in facciamo un conto veloce, guarda, se ne hai e fai almeno 2, 4, 6, 10 viaggi, ti hai fatto un bello stipendietto in 5 giorni, bello succulento, scarichi e pagato immediato, poi malandando, se non ce l'hai in contatto ti fanno l'assegno e poi vai te lo cambi. E cappa, e quanto te lo pagano il ferro? Il ferro oggi era 39 centesimi il chilo. Ho capito. Ma non ti voglio dire cazzate, oggi abbiamo fatto. Abbiamo fatto allora, sì, un viaggio, facciamo due viaggi, dai, due viaggi in tasca che abbiamo messo 400 euro a testa. Troppo correme c'è, Antonè, non riesco a capirti bene. In due viaggi ci abbiamo fatto 400 euro a testa, togliendo, dai, quelle 25 euro a testa per il gasolio, ma solo 400 euro in due viaggi. E vabbè, è un dopo di più, non c'è andato male, no? No, siamo andati bene, abbiamo caricato sino, guarda, finché si poteva anche di più. Comunque, dai, già ci è uscito il tanto, col sorriso già rientri a casa. Giustamente, Antonese, mancanza di altro, ci accetta il buon cuore. Sì, ma senza ammazzarti, giustamente pantaloni da lavoro, un paio di guanti, caricando bene, senza fretta, nessuno ti rompe le palle, fai quello che devi fare e rientri tranquillo. Mi ha dato una pulitina a questo posto, che dovevamo sistemarlo, per lo vecchio, delle vecchie macchine, lo stesso. Ritirano anche quelle, tagliate bene a pezzi, il motore non lo ritirano finché non lo svuoti dall'olio, giustamente va svuotato dalla coppa e poi lo puoi mettere lì come ferro lo stesso per riciclo. Ritirano anche quelle, però l'importante è che non ci sia l'olio e ce lo butti direttamente, anche con l'olio lo stesso fa peso e via. E cappa. A chi c'era Gianni? C'era Gianni, ho detto aspetta un attimo che arrivo subito e poi sicuramente ancora l'impresa con l'orologio che lo sta sistemando, ha perso il perno. Scusa un attimo, Luigi mi sta chiamando Paola, arrivo subito. Sto facendo un po' di radioascolto e poi stavo modulando, ripeto, in e mode laterali, già abbastanza divertente anche lì, eh. E cava. Non li capisci se sono francesi o russi, boh, in FM sono. Non ho più sentito a Giovanni Chiaramonti. Sono in FM, ho detto questa propagazione, ogni tanto aumenta e diminuisce, ho detto non ho più sentito a Giovanni Chiaramonti, tu sentito l'hai? No. Poi intanto passavo sul 4, sul 5, però non... sono buono buono, una settimana che non lo sento più. Guarda, fatto un giudicare veloce veloce, è tutto completamente pieno di QRM. Non so, che propagazione è incomprensibile. Troppo QRM c'è. Ascolta, fai la cortesia. Un po' non hai di radio, per favore. No, la radio è 5, il segnale tra 7 e 8. Cosa c'è, picchi? La picchi positivi, eh. Perché? Aspetta un attimo, scusami. Ecco qua. Sì, già sta andando. Cappa. Sto usando il signorino, ogni tanto bisogna accenderlo. Oh, ciao Capri, buonasera, mi hai sentito. Sono io, zio Leoncino, poi c'è da Gianni Doppio Rum che ha fatto un attimino di bianco. E comunque, a me te li non deve dare un buon litro di vino, eh. E lo sai perché? Bisogna festeggiare o no? Ho preso il dimenticato. Guarda, sono pieno di pratiche, di compropaganda, di una volta di pratica, cioè una volta che devo scrivere, sto brigando, sono... Thank you. perché c'è troppo corrente, dunque mi stanno ammazzando questi signori e non riesco a capire quello che state dicendo. Copiato l'hai già. Vabbè che io mi ho fatto la linea, sentino quel pullman, cioè ci sono sempre solo. passa, perché se no, se esco dalla parte che qua per Russi, vado a rientrare, non ci gira mai qua a finire sulla aiuola dove c'è il segnale. Quindi sono uscito da lì perché prima avevo provato a farlo uscire, allora mi sono messo, sono uscito, l'ho tornato appena indietro, ancora stavo usando la macchina e poi l'ho riportato. No, in terra lo avevo tranquillamente, bisogna capito che lui prendavamo perché gli ho parlato delle tomate, l'ho portato giù alla sala larga, dietro il buon 99. Io credo bene al piccolo, gli ho fatto parlare delle tomate, no, guidare già lo guida, però gli ho detto, non è sempre così, ho detto, vediamo dove andiamo, questo incontriamo altri mezzi del genere, sulla strette, come quando lo sentiva, e bisogna che uno sia proprio sicuro, se no ci voglio sempre io a bordo, altre. Vabbè, questo sì, forse l'occhio. Sì, vabbè, io vedo tantissime volte chi guida, diciamo, questi mezzi dell'ART, li guida ogni giorno e si vede che l'esperienza c'è, non stanno lì a fare retromarcia, ovviamente è a colpo sicuro, è normale, anche nello spar di traffico in cui stai dicendo tu, ti ho capito benissimo la prova che hai fatto, ecco, però senza problemi la prendono al primo impatto, e ripeto, ci vuole sempre, scusami un attimo se mi ti dico una cosa, controllare, ok, ci vuole sempre pratica, c'è poco da fare, sì, ma l'unico modo per fare esperienza è in mezzo al traffico, alla fine è quello, impari subito. Tu hai imparato se sei nave? Cosa? No, ho capito sto dicendo, buonasera a tutti, tu hai imparato se sei nato, capito? Lascialo fare, che magari poi impara meglio di te a guidarlo. Lascialo, se tu gli stai sempre appresso non imparerà mai, li metti FIFA al bar. Parco vacchia! Ma la papà, già no, se ti vuoi, già ce l'ho fatto, già no! non ripeto, in paese le parcheggi ce ne sono pochi, e come lo vedi al di là sono le macchine parcheggiate alla cosa ricane, molte volte deve stare, no, già saranno bene, già saranno bene il signorino. Qui è che siamo andati male, c'è questa cinese di ricordo a Santiago 7, che mi disturba molte volte o meno, non si capisce con la tavolozia. Io sono sempre in ascolto, già, sono sempre in ascolto, cambio, io sono orecchio di porco, cambio. Io organizzo la gita per CB e siamo tutti partendo. Sì, vado a pagare già della puttana. Mi sembra già che fai tre al litro, Fabi, quindi vuol dire che posso fare una luce. No, c'è un sacco di plastiche da spedire. Diciamo che bene o male già stiamo tirando avanti la baracca, piano piano, lavoro qua, lavoro là e via, però meglio di niente, dai, non bisogna mai arrendersi. Comunque mi hai fatto ridere quando Gianni ti ha chiesto, adesso organizziamo qualche gita per CD, ma scusami, per CD, e tu hai detto, basso magare, e Dio mio, quando è che ti fa questo... Quindi regola per bagnarlo un giro ci vorrebbe, comunque, se il detto nel caso va benissimo. Quando ti fa 3 km al litro? 3, Fabi, fai che faccia il 4, il 3, il 4, io la trasera lo butti, perché ho detto a portare il sole, sali dallo sportello, vedo, della parte di guida, perché se la fine è alta, come, bisogna caricare l'aria, molte volte, quando si sale a freddo, sta un bel po' in moto. Ti ho detto che ci ho buttato 100 euro per la prima volta, ma col pelo ne ho caricato 600 euro di Napata, ma con 200 euro di Napata, ma con metà il serbatoio. E niente, ho detto il pittale di metterlo in moto per tronzate, a ferma per fare aprire. Ecco. Dice, ma ho sbagliato. Tu zecco? Capito, sono cose a quel che sono, diciamo, più moderni, capito? Fanno qualche chilometro in più come consumo, però... E che culo? Succhiano, perché anche quello che ci avevamo assistito per me, proprio consumare, e quindi, hai capito, la cosa sta parendo alle stelle, è meglio evitare di lasciare il mezzo in moto, perché se lo carica l'aria non trova le cose, quindi ritrovo, trovo lì via, trovo di cagliare le manichette una 20 euro, potete ricordare, e quindi se non usiamo a uscire in giro, se sali dalla portiera dell'autista e basta, per fare cose di moto, in play via. E come minimo ci vogliono 400 euro un pieno, dai. Sulle 300-400 euro ci vuole. Ma ti ho detto che c'ha 200 euro di Napata, ti ho messo io, poi ho messo altri. È nato a metà, e chissà quanto tiene. Devo guardare il coso che ho salito qui, e prima di coricarmi metto gli occhiali, ho portato il coso di istruzioni, di manutenzione, di fuma, a vedere quanto contiene di gasolio. La cilindrata non la posso anche dire, dopo la soccorre da 17.000 è già registrata. Dio mio santo, e cosa ti fa? 3 km al litro, è possibile, non è possibile di più. La roda consuma quanto è una Ferrari, quanto è un cazzo di autobus. Non c'è, a Polaro, è dovuta su, a suo botteghino, a capirmi dentro. Ma cosa c'hai questo autobus? Una Ferrari corporato? Dico che beve, ti dico che beve, ma già vedete uscire tutto, ma quando la tua tutto va lì deve uscire, ho detto che tutto va lì deve uscire, ecco. capito, ecco qualche perfetto, quello per quest'altro, parti con i piedi giusti. Ok, comunque noi andiamo per il baracchino, già stiamo da prenderci, no, e se 24 ore su 24, quello sono praticato un vito proprio per liquidarlo, con un tenetelli e se fuma, non lo vedo così bene, è quasi 10 giorni la cosa fuori. Parliamo con le radio, ripresi a Pomeri. Eia, no, no, va bene, ma... Ma appunto, adesso in parlo così lungo, non credevo che una cilindrata così spaventosa, giustamente, chi ignorante materia non se lo può neanche immaginare, quello già è vero. E via, e i baracchini, beh, niente di particolare. Stavo un po' di giorni fa, quando andando in canali alti, canali bassi, c'era una buona propagazione, mi sono divertito lì, la verità. Niente, niente di particolare, era passata una serata diversa dal solito, tutto lì. Io ho la spazia, però, hai capito, non so se dopo cena mi viene questa forma, mi viene, me lo metto sul tavolo, anche mi sto raccontando, e adesso sto salvo la cena, non mi sa prima molto, ma sono ripassati poi, chiudo perché proprio sono stanco, mi prendi di nuovo già. Comunque un ultimo consiglio che ti posso dare, cominciano di nuovo le scuole, anche adesso mi alla fine della scuola fanno le visite, infatti pubblicità nelle scuole. Sì, quello sì, già me l'hanno detto, però ancora c'ho delle pratiche da sbrigare, devo un po' fare le pratiche in regione già perché le devo fare le targhe, capito? Le targhe quelle lì che vanno restituite, ma se le targhe nuove, quello è un pubblico. E ti ho aspettato, se hanno domande di dove cosa fuori, perché ho messo, ho riservato di una settentina in casa, bene il problema, bene il problema. Domani dopo che l'ho detto a quello, chiamami tu, se no ho fermato di nuovo da casa, stavo lì da dire cosa. Riprendi Giuseppe. Giaffa, beh, il lavoro, è meglio che ce ne sia più che meno. Sì, ma io non faccio tutta la volta lavoro, cioè lavoro sulla scuola, adesso mi anche sto per finire, quindi non è che c'è molta disponibilità di soldi a fare, e quindi, hai capito, le macchine si muovono, sono in avanti quando c'è, sono andato a uffici pronto, no, non è pronto, passa stasera, passa domani, in realtà mi chiamate voi, ma non mi muovo prima nessuna parte, finché è giusto andare a fare file, a fare anticamere di cosa e niente, poi ero anche amareggiato stasera, non è possibile, dopo che esiste ancora tutta questa burocrazia, mi prendi com'è? Ecco. Anzi, buonasera. Buonasera Fabrizio, da questa parte chi vi cordializza. Ascolta Antonio, dammi un controllino, fai il favore, che sto provando una radio. Eia, niente, cosa preferisci? Il 68 o il Galaxy? Perché tutti e due danno, ognuno dà il suo segnale. Comunque qui sei 9 più 10, la radio è 5, è bella, col 68. Ti ascolto bene. No, quello che mi interessa soprattutto è aspetta, basta vedere, lo controllo, scusa, è passato un po', no, sto provando una radio, un 140, come il nuovo, come sembra che sia uscito dalla fabbrica, aveva una fesseria, l'ho messa a posto, era proprio una fesseria, si vedono anche attiva gli smith, le frecce a posto, però chiuso, veramente bello, volevo vedere, e c'avevo infatti intento di tenermelo io, perché veramente bello, volevo vedere un attimo se la radio come sta uscendo, se è come il 440. Guarda, sono esperto di questo, la radio è bella, amplificata, pulitissima, giustamente ripeto c'è sempre quel piccolo sottofondo di vetro, di raffreddamento, poi per il resto va benissimo, bella amplificata, perfetta, senza nessun difetto, ti ascolto benissimo. Okay, chi c'è in ruota per il controllino? C'è Gianni Doppio Room, Dioncino e Gianni Capidu da Muros, avanti per non mi ricordo il nome, orca miseria, vabbè vai. Gianni, Quale? Buonasera Fabrizio. Quale, io o Muras? No, inizia tu che la conosci la mia radio. Ascolta, tu che conosci la mia radio, sto provando questo 140 che mi è appena arrivato. Mi sono tornato a bocca aperta quando l'ho aperto esteticamente, fuori era più nuovo del nuovo. L'ho aperto dentro ed era ancora la legge da aprire, era uno spettacolo. Una fesseria e quindi l'ho terminato adesso, una volta di lavoro. Volevo vedere come sta uscendo di radio in confronto al mio, perché adesso gli attacco gli strumenti e faccio vedo se è tutto allineato, prima di richiuderlo, voglio vedere se c'è fare qualche allineamento e se lo richiudo. E sono una mezza intenzione di tenermi questo al posto del 440, se esce bene di radio come il mio, perché veramente è bello. Dimmi un attimino già, in confronto al 440, pure attacco e faccio un passaggio con il 340, come ti sembra? Io lo sai che preferisco sempre la radio del 140, il 440 tendo sempre a strappare, ormai è molto più chiara questa e diciamo il 440 ce l'ha più forte ma è meno chiara, è troppo forte, come la radio, invece questa qua rimane forte sì, però anche chiara, cioè, secondo me è migliore questa, è molto più chiara, molto più limpida. Ho capito, allora lo scratch questo qua, aspetta, processore attaccato, sì, vediamo della Muros, avanti. Buonasera Fabrizio, sarò un po' che ti ho sentito, no? La radio è, diciamo, pulita, perfetta, bella, mi piace tantissimo, come togliamo il 140 rimane più possente, più rapido, molto molto come ci sentiamo di strada, però questa è perfettamente a me, per cui orecchio va bene, poi è questione di gusti, anche a me mi piacciono le robe possenti, però questo niente da dire, sta qui, per me va alla grande. E anche dei picchi, da parte mia ci sono picchi. Adesso mentre il nudulabio ho guardato un po', l'indicatore c'ha i picchi abbastanza ben accentuati in positività. Io c'ho anche il pace del cardellino. Questo è meglio perché non dà più di 50 watt in AM, come deve essere dalla casa, non è mai stata nemmeno tirata che la porti a 100 watt questa, no, non è nemmeno mai stata tirata nei watt, immaginate un po'. È uno spettacolo, cazzo, va bene, vai. Allora, un problema, infatti quando è da fuori, ogni tanto mi chiamano e me le offrono, mi dicono, ormai non vedo un po' i contatti, mi stanno prendendo delle radio, alcune dico sono a posto, solo che alcune dico ma un problemino, in che condizioni è, apri la controlla, ok, manda, e questa è una di quelle. Ascolta, dai, riprendi già, dammi un 10 secondi orologio il tempo di fare un due passaggi che collega il 440, così vedi qual è la differenza, come la vi sembra, questo è il 140, un attimo. Campagna. Anche più acuti e più squillante la radio, E per la tua voce si amice molto. Guarda questa invece è il 440. Vanno un po' più di watt, saranno questo qua se non sbaglio, però con la nuova modulazione come ti sembra già che fai girare gli altri mi daranno un loro giudizio. È bella anche questa Fabio, non ho niente da dire, anche questa qui è bella, anzi non è che ha cambiato tantissimo, dico la verità, quella là rimane più pulita sempre, la sento più pulita come radio. Questa qua pompa lo stesso, non è una brutta modulazione, perché attenzione, non è brutta, però preferisco l'altro. Gianni Capri 2. Che l'altro mi piace di più, questa ancora un'altra è... Io forse lo sento più rilassato, più... No, va bene anche questa, però l'altra era, piace di più a me. Ok, per il momento vi saluto perché sto crollando, mi stavo tormentando, mi sono troppo rilassato, lavorato, ma mi sono preso una così giorni, quindi fatemi andare a letto. Nel caso domani mi riaffaccerò, almeno per salutarvi. Qui grazie a tutto l'automello Barracuda, farà girare, ascolterò un po' il prima lì e poi chiudo la leggera più da 4 minuti, riprendi a me. Sì, già. ti auguro buonanotte, ci sentiamo alle prossime. E il mio giudizio, devo dire che per come ci stiamo svolgendo con questo apparato, non è male neanche questo, hai attenzione. Io la differenza la trovo nel fatto che questa rimane molto più incisiva, ha molto più carattere confronto all'altra. L'altra non è brutta, attenzione, sono tutte e due belle modulazioni, però questa la sento con un pochettino più di grinta in più. Che non è male lo stesso, è la verità. Il mio giudizio, scegliendo, avrei preferito questa modulazione qua, io personalmente, per il mio orecchio. Rimane molto più incisiva, molto più prepotente, ma allo stesso tempo ben governata, ecco. Infatti, guarda, tu mi praticamente, io ormai ho questa considerazione, l'ho già fatta con le prove che fa radio, lui dice che è più 140, io ho già fatto solo due radio molto simili come modulazione, e c'è una questione, una piace più, una piace più l'altra. Perché è uguale a me, io quando ascolto Claudio voglio sentire con tutti e due, però lui comunque preferisce il 140, io sarà, ma il 440 lo preferisco con la caro, è una questione proprio di gusti, là. Ma me l'importante è che va bene, nel senso, io guardo, allora questa addirittura, mai visto una radio così, c'aveva anche già il tappo, non so se li limiti da fare, il tappo del microfono, che in effetti forse quando è uscito lo danno, non per passare, il tappo del microfono, al posto del microfono, cioè, immaginati un po', mai visto la mia occhio, con la calore di quanto è, no adesso, io mi rimango in ascolto e gli faccio attacco un po' di strumentazioni. E l'analizzo tutta quegli strumenti, quindi vuole essere allineata, così un'oretta l'allineo, c'è da allineare, se no cioè, è così proprio su chiudere, ti prendi già e fai girare. Poi io parlavo come chiarezza di radio, come chiarezza di radio ne ha più 140, a mio orecchio. Andare, vabbè fai pure Fabi, dai, preparamela bene e me la prendo io. Guarda, oltre che 40, ma il 140 lo faccio fuori, quando ti capita un contagio del genere ti dispiace darle, perché sono tutte e due perfette, solo che sono due opzioni, perché più lo uso per la 27 e per le altre che vanno avanti adesso se passo, che userò altro, ce li ho già e qualche un'altra dovrebbe arrivare, quindi questa una o l'altra va più che bene. Ma una o l'altra la do, guarda, questa è perfetta, l'altra lo stesso, però prima di avevo intenzione di quando non mi ha dato problemi, il 440 praticamente, cioè infatti ci hanno tutti qui inquadrando il problema del VCO, che nel tempo la cosa diventa conduttiva e danno più problemi, prima o poi lo fanno. La mia era vergine ancora, non è mai stata fatto niente al 440, infatti avevo intenzione, in genere si fa quando da problemi, a volte non ne danno mai. No, pensate con intenzione, se mi avanza del tempo, dopo aver messo a posto queste radio vorrà arrivare, avevo intenzione proprio di smontare e ricostruirli, cioè praticamente smontare i componenti, togliere la colla, cambiare i diodi e rimontare, rifare questi luci per strada, e così diventa eterna anche il 440. Magari non gli succederà mai niente perché i difetti non li ha mai dato. Comunque avevo fiduciato in questa intenzione, adesso vediamo se farlo o no, è come uno che apre i cilindri per fargli le fasce quando la macchina non ha problemi, per essere sicuro, non lo so, questo dovrò solo decidere, comunque per il qualcuno delle due la farò fuori, perché non un doppione, dai, come decidere uno o l'altra. Sono 440 è più vendibile sicuramente con l'accordatore, tutto è più completa, tanto a me serve solo per la 27, quindi anche con il 140 è più che sufficiente. Però adesso vogliamo. Vabbè, scusate se vi ho un attimo di interrotto un po', se ho, mi serve questo controllino. Grazie a tutti, io passo in ascolto e proseguo. Buon lavoro, non ci ha disturbato per niente, ogni tanto fa piacere sentire, fare, ascoltare, non è che a me perlomeno fa piacere, poi gli altri non lo so. Avanti Antonello. Sì, io personalmente me l'avrei tenuto tutti e due, doppione oppure no, l'avrei lasciato lì da una parte e poi sai, poi ti capita un giorno dopo uno o due anni che la vedi ferma lì, ma perché no? Io se gli rimetto mano di nuovo la facciamo girare. Ma io personalmente me l'avrei tenuta, è la verità, pure essendo doppio, chi se ne frega. Se non c'è un po' di spazio, tanto per cui per quel poco che spazio che prende, io l'avrei messa da parte lì, viene la voglia dopo un po' di tempo, ti diverti di nuovo. Diciamo già sono quasi in via di estinzione queste radio, io non l'avrei data io personalmente, poi ognuno è libero di fare quello che vuole. C'era anche zio Leoncino, la faccia 18, poi così tanta voglia di fare quello che vuole. Zio Leoncino, ci fuori, dai, promette a me ci da fuori, ce la metà dare pure due. Commente, avrei già a parafango, io sto ascoltando, Antonio, io stavo solo ascoltando, mi si stavano chiudendo gli occhi, hai capito? Perché te l'ho detto, c'ho questo mal di testa, mi sta scoppiando la testa, hai capito? E dunque non ce la faccio. Perché non pensarci troppo alle donne? Cos'è già? Non pensare troppo alle donne. Alle donne, c'ho un mal di testa che mi sta scoppiando la testa, qua no. Non ce la faccio più. Come mai, oh Giuseppe? Com'è questo mal di testa? Boh. Boh. È un periodo un po' strano, perché polvere, cazzo, c'è piglio polvere, cazzo, la mattina e portando via quelle statue di cose, di ceramica, sono tutte quante in polvere. Sono allergico, ho capito. Prendi una mascherina di quelle che vendono per, anche per non prendere malattie, roba del genere, per non per i parassiti. Sono vabbè, io rimango in ascolto, là. Rimango in ascolto e scelte al limite dopo, va. Vabbè, ciao Leoncino, buon ascolto. Eccomi. E che Leoncino, è un ascolto, saluto. Ah, scusami, no, io mi sono distratto un attimo, stavo facendo una cosettina. Leoncino, prendi un Aulin, mangia qualcosa, ti prendi un Aulin se ce l'hai. E mezz'oretta ritorni come nuovo. E via. E allora già, cosa mi racconti di bello? Non parlo niente, tutto brutto. Quello già è vero, ma per drammatizzare, dico sempre così. Casino, poco lavoro, malumori al lavoro e cose, c'è poca gente, casino. Già è vero, infatti mi ogni tanto, solamente la prima pagina, da Nova Sardegna, guarda un po' com'è la situazione. E stavo così, dando un'occhiatina e il gruppo di Pepegli, diciamo, sta prendendo piede, speriamo che sia qualcosa di positivo. Poi mi spero che con queste votazioni qualcosa abbiamo concluso, che ci diano retta, perché anche il cittadino, soprattutto il cittadino, ha diritto di decidere e di volere, e se il volere di tutti, non penso che comandino solo i politici. Beh, sarebbe anche ora, giustamente, danno un po' diciamo in mano ai cittadini il cambiamento, ecco, tutti insieme, non solo quei quattro handicappati e compagnia bella, d'altro non stare lì a aggiungere parole che in questo momento non fa. Comunque che ognuno, tutti insieme, ci si aiuti per andare avanti. Speriamo che sia qualcosa di nuovo, che non sia così una. Perché posso dire un miraggio, speriamo che vada tutto bene, che sia un buon inizio, dai, ecco, per sistemare un pochettino la situazione, e poi purtroppo sempre solite cose, anche oggi così mi hanno detto che un altro imprenditore si è tolto la vita per la sua disperazione, ecco, e ogni giorno c'è di una, Dio mio caro, andiamo bene. Quella gente onesta, capito, che non riesce a pagare gli operai e si ammazza perché si vergogna non poterlo fare. È gente onesta che ha sempre pagato le persone, sono i veri imprenditori, quelli che si mettono i problemi per gli altri padri di famiglia, ecco chi sono. Sì, sì, quello sono pienamente d'accordo, e spero che sia anche così. Sì, chi se ne frega non se ne mette le prove di togliersi la vita, vada come vada, continua ad andare avanti. Chiudono e poi riaprono con diversi nomi e compagnia bella. Sì, quello è vero, però purtroppo la situazione è quella che ci sono, giustamente come dici tu, quelle persone onete che veramente l'onestà alla fine che ti porta anche a comportarti in questo modo. E lo so, non è facile, porca miseria, non è facile, ma speriamo che finisca, sarebbe anche ora, per carità. Ma parliamo di cose più allegre, Antonio. Tanto è una cosa che sta prendendo male a tutti, questa miseria che c'è in giro, questa mancanza di lavoro, questa aumenti di benzina, aumenti di tutto, gli stipendi invece di aumentare diminuiscono, le vite ti chiedono di fare part-time, ti chiedono di non andare la sera, insomma, io non riesco più a capire, non riesco più a capirci nulla, dico la verità. A me mi hanno proposto una proposta di fare part-time. Scusa se te lo dico, è un brutto segno, è veramente un brutto segno così. No, quello sì, io ripeto, sì, ha ragione da una parte, si parla sempre di questo discorso, ma a volte sempre anche per scaricare la tensione, ecco, tutto non è che lo fai perché non ci sono, diciamo, nuovi argomenti con cui parlare, che purtroppo tutti viviamo nel primo, purtroppo è così, nella stessa barca, e serve per scaricare un po' la tensione. Poi per fatto del part-time, la miseria, non è un buon segno alla fine, ma penso almeno per il momento gli unici sono i centri commerciali, piccoli o grandi che siano, sono gli unici che nella situazione in cui viviamo stanno andando avanti, ecco, dunque non credo che ci sia tutta questa preoccupazione, o spero di no, spero che non ci sia. Se continua così, io è un casino, ma no, ma io non ho accettato, me l'hanno solo chiesto, non obbligato e niente. Me l'hanno solo chiesto se lo volevo fare tu io. Vabbè, giustamente. Così di sfuggita, settimana scorsa mi ha detto che anche Scandellari, che c'è a Sassari, poi ho capito male, c'è a Cagliari, a Nuoro, che fu dalla Sardegna, ora quello che c'è fuori dalla Sardegna mi ricordo se era a Milano, non so dov'era, lo tengono aperto. Invece questi tre punti in media che ci sono in Sardegna, quanto pare sono in agonia, secondo me se non riescono a superare il 2012, il 2013 hanno intenzione di venderlo o direttamente di chiudere. E Scandellari, porca miseria, è grande, non è una piccola azienda così. E anche quello, porca miseria, nell'economia, diciamo, è un brutto segno veramente. Solo che anche l'edilizia sarà male per il semplice motivo che se non c'è soldi cose non le compra. Beh, quello sì, quello è pienamente d'accordo, è così sempre. Per quanto me l'ho detto, adesso quei pochi parecchi anni fanno, tre lavorano e altri tre ricordano male, non ho capito mai se sono in 5 o 6, comunque tre lavorano 3 mesi, gli altri tre sono in cassa integrazione, cosa è, e poi fanno a turno, ecco, stanno facendo a turno per il momento, sempre sperando che riescano a superare questo 2012, che ci sia un pochettino più su richiesta, se no chiudono direttamente i battenti al prossimo anno. Sì, funziona così, si fa turno. Quando c'è la cassa integrazione si fa turno così. Anche quello è un brutto segno, ma però bene o male, diciamo, nel punto in vendita che tu lavori, per dire lì a Porto Torres, c'è un posto, diciamo, abbastanza frequentato, sì, la frequenza c'è sempre. È un periodo che la sera non c'è nessuno. La sera non c'è nessuno, tu vai lì alla zona industriale dove c'è Cifada, Libero, cos'hai, o Eurospin, no, forse Eurospin, lì è completamente non pieno, strapieno. Dove passato. Allora, guarda, io sono andato lì di sfuggita, non ci compro perché sinceramente i loro prodotti non piacciono, e dico che ogni fine settimana è una cosa, guarda, impressionante, ti giuro, non c'è, quali parcheggi ce ne sono, non trovi un parcheggio, non trovi neanche i carrelli per andare tu a fare la spesa, perché sono tutti occupati, guarda, ti giuro che è una cosa impressionante, è tutto a carrelli pieni, poi giustamente compri quel che compri, però la gente sembra che stia buttando lì la maggior parte dei sassaresi d'intorno, anche molti paesani, li ho visto tantissimi lì caricandosi la macchina, tutti lì, guarda, è una cosa, guarda, spaventosa, non credevo, e lì di bene o male sta lavorecchiando, io vado lì di a Caniga, dove c'era prima il mercatone vecchio, ma l'affluenza che c'è a Lidl, cos'è? Guarda, è spaventosa, guarda, veramente spaventosa. A Lidl o ad Eurospin? Scusami, Eurospin, Cinfado, di fronte a Cinfado, Eurospin, sì, Eurospin, scusa, mi ho sbagliato. Guarda, Antonio, che credo che non ti piacciono i prodotti di Eurospin, sono tutti prodotti sardi, inutili. Il latte per dire sardo, le mozzarelle sono sarde, io li compro, dico la verità. No, il latte sardo ha un altro nome, è ok, ma le mozzarelle no, le mozzarelle non sono per niente sarde, neanche il burro e neanche gli affettati. Dall'ED invece c'è il latte sardo che è flo, come viene chiamato, e viene fatto dalla Coapla, l'industriale Predanieta, solo che cambia il nome e lo fanno pagare di meno. I salumi lì sono sardi, l'ED sì, Eurospin no, li tirano già confezionati e vengono da fuori, sia i salumi che le mozzarelle, invece Eurospin, ma scusami, l'ED, le mozzarelle sono dell'Arborea e il latte della Coapla. Vabbè, comunque io compro il latte lì e le mozzarelle che sono buonissime, non niente da dire. Ah, ma noi abbiamo provato, non ci sono piaciute, la verità, costano di meno e sono due volte più grandi, si è notata la differenza, le maglie dello spin e da LD cambiano, sono le tipiche mozzarelle normali da LD, ma le dello spin sono due volte più grandi, unissimo con la mozzarella, sto parlando, e ci sono, se non sbaglio, 20 centesimi di differenza da uno all'altro, ma non come prodotto, sinceramente non ci sono, le abbiamo provate, ma non, la verità, ma noi non ci sono piaciute. Voi che mozzarella mangiate? Come le dica vengono fatte dall'Arborea, adesso non mi ricordo com'è la marca, comunque ce l'ho lì nel frigorifero, e sono fatte in Sardegna. La lande sono buone, io catturesce il latte, guardate dove c'è il latte, sono solo, io le trovate molto buone, morbide, non sono dolci come quelle dell'acqua che abbiamo nel viaggio. Sì, quello che io ho trovato bene, esatto, sì, è la lande, sì, fanno sia le mozzarelle che il latte, però diciamo non è, diciamo, un prodotto sardo, ecco, tutto lì. Sempre sperando che anche quello lì sia di buona qualità, non detto che se non è sardo non è di buona qualità, comunque sì, Land, la marca è Land, c'è di mozzarella che di latte o derivati, quello sì. No, ma non siamo trovati bene, sì, il pesce ha un buon prezzo, trovi quello locale, quello esportato, lo fa anche moltissimo la pescheria, quindi per la frutta lì c'è una bella differenza, lì di frutta e verdura a 99 centesimi, tu mi dici da dove arriva, lì trovi le melinda, le mele non sono, ma scusami, le mele sono melinda, le banane non sono cicchita, sono di altre marche, sempre quelle zone esotiche, le patate sono da Cagliari, gli arance le arrivano lì dalla Spagna, poi la maggior parte dei prodotti sono sardi, le cassette, c'è scritto la produzione sarda, tranne le arance che vengono dalla Spagna, le fragole, poi il resto sembra tutto di zona, ecco, a 99 centesimi. Invece da Eurospin c'è una differenza di 30, di 50, anche di 70 centesimi da prodotto a prodotto, al chilo. Io prendo le arance appena uno col camion di Milis, le prendiamo da lì, ma sono una favola. Sì, quelli sì, di quella zona sono veramente buone, quello sono piaciute tantissimo anche a me. Dolci, anche le uova sono buonissime. Poi ci sono quelle, se ti piacciono quelle sanguigne, sono proprio buonissime anche quelle. Sì, ma quello lo trovi le prime direttamente dal produttore, quando lì stanno quando fanno le piazze quei prodotti lì. No, passano il camion questo, arance di Milis. Si ferma lì via Pulizzetta, adesso ce la compra, poi noi andiamo e ce la prendiamo. Ah sì, in questa occasione sì, qua in paese, guarda, è una cosa rara che trovi qualche ambulante di frutta e verdura, prima c'erano tantissimi, anche il pesce vendevano, adesso qui non arriva più niente, strano. Perché c'è il supermercato, capito? Non mi conviene più venire, non vendere. C'è questo di Mis che viene con il camion pieno di roba, patate, di tutto, base. Lui prende e fa una specie di mercatino, si mette in uno spiazzo che c'è dove c'è un'edicola, via Pulizzetta, quello spiazzo lì, e mette, apre il camion, c'ha, come si chiama, quello di sportivi che si alza, no? E te lo fa tipo tettoria, e mette, fa tutta la bancarella, e vende così, ma se ne va via sempre col camion vuoto. Vuol dire che i prodotti sono buoni, e si è fatta una buona clientela. I prezzi sono buoni lo stesso, sì. Sono buoni i prezzi, non guarda peso, se c'è mezzo chilo più te lo lascia. Ti regala i limoni, ti regala il prezzemolo. Già è buono anche queste piccole cose, da attira molto la clientela. E poi sai anche cosa stai mangiando. Che prodotti sani, di quello che vuoi, sono buoni, non ce n'è. È meglio così, almeno lì quei pochi ambulanti che sono rimasti abbiano la possibilità di lavorare, no? Poi anche lì, via Pulizzetta, già è una bella zona, è abbastanza di passaggio, poi ce ne sono case lì, anzi case, palazzine, e dunque ce n'è gente, no, non va bene, qui in paese, ripeto, no, a volte una volta alla settimana fanno piazzatola qua, quasi vicino a casa, ma no, non viene più nessuno neanche lì, ma è una cosa, anche qua lo stesso è veramente spaventosa. No, questo c'ha le uova delle galline sue, c'ha le arance che produce lui, le patate che produce lui, poi ha anche qualche cosa del mercato, ma tu dici questo qui per dire che preso il mercato all'ingrosso perché non è a pezzo, è a finto. E l'ho preso lì, ma adesso è buono perché so chi l'ha venduto, capito? Mi sembra che sia anche onesto. Scusa un attimo, già mi sta chiamando mia figlia. Ehi, allora, salutala. Ci sei già, ti devo lasciare che devo preparare la signorina per domani che deve andare a scuola, che non ne ha voglia. Però è come Marco, ma come ci voleva andare, sta mettendo la febbre, va 36,1. per un grado non voleva andare a scuola, così è. Sì. Va 37 in poi, no, che lui c'ha 36,1, 36,2. E ci voleva la febbre per non andare. Vai e prepara la signorina. Ci sentiamo alle prossime. Ciao Antonio, ci sentiamo. E io adesso mi devo preparare la borsa, lavarsi i denti perché ancora ci vuole Gesù Cristo, e non andare a letto, guarda, ogni notte una battaglia per lavarsi questi denti, guarda, per carità, un po' con le coperte, allora buonanotte, le ali domani, guarda, pazienza ci vuole, là. Sono così i figli, va bene, ci sentiamo alle prossime, dai già, salutemi. Il tuo figlio deve andare a scuola domani, che se no gli tocca lavare le scaline quando avrà 20 anni. È vero. Se ne trova pure. Andiamo, ci sentiamo. Io dico sempre a mia figlia, studia che poi domani almeno ti trovi bene, non c'è rimedio ancora, ma piano piano. Già l'assillo giorno per giorno. Va bene già. Ti auguro buonanotte e buon proseguimento di serata. Ci sentiamo alle prossime. Ciao Antonio. Marco non c'è bisogno di assicurare, già fatto tutto da solo, già è bravo. Almeno lui. è bravino a scuola. Solo portare gli altri nei baci, mi sta incazzando. Io lo sto sentendo. Vai a scuola domani che devi imparare, dai. Quindi puoi diventare un bravo ingegnere, un avvocato, cosa ne so. Almeno si fa una bella vita tranquilla, non ne ha problemi. Almeno dorme la notte, sicuro che sta lavorando, almeno quello. Quindi la vita ci sono alti e bassi, ma almeno per il lavoro ti dà la possibilità di andare avanti. Dunque studia. Allora, l'ultima cosa che vuole dire, la radio come? La radio ti sento un po' nasina, a volte sei troppo amplificato, a volte sei in lontananza. Dipende come ti muovi. Ormai mi ho fatto l'orecchio, dunque è normale. Ma guarda, questa testa qua va bene. Beh, direi che ti sentivo molto meglio confronto ad altre volte. Cavagna. Vabbè, ti auguro buonanotte, se no non ci vai più. Ciao, ciao. Ciao, buonanotte, alle prossime.